Ok. Il barbero è uno scemo, uno sfigato, il barbero è uno sfigato. Tipo stai puntando il dito verso me. Tipo non capisco, tu ce l'hai con me. Tipo stai puntando il dito verso me. Tipo tu ti senti superiore a me. Tipo stai puntando il dito verso me. Tipo non capisco, tu ce l'hai con me. Ce l'hai con me perché io sono quello che ti fonte. Ti lascio andare a casa lacrimante con le gambe rotte. Ossa scosse e le tue mosse scarse mi rimbalzano, non mi colpisci, sono un fuori classe. Tu sei quello che va in giro con il gruppo. Tu sei quello che fa il figa, poi da solo ti nascondi dappertutto. Magari poi sei quello che ha tutto, ma non ti basta vivere nel lusso. Una macchina coupé, io non so neanche cos'è. Guida con giardino e l'ho sognata quando ero un bambino. Ma il destino mio è un po' diverso dal tuo. Dalle mie parti si dice si salvi chi può. Fatemi spazio, il primo stronzo che incontro lo grazio. Ringrazio mio padre e mia madre per la forza che mi hanno dato. Non ho dimenticato nessuno, tutte quelle persone che mi son vicine. Saluto uno per uno, fanculo la gente che mi ha pugnalato, che alle mie spalle di nascosta ha rubato. Caro fratello, tu ti senti superiore a me. In giro poi spantichi del tuo suolo in panchè. A te tutto è stato regalato dal principio, leccando il culo a chi conviene anche nel municipio. E oggi sfoggi la carta di credito del babbo, incollata a te, quattro zoccole ti stanno, nient'altro. Mini gol e tacco alto, fighe d'infarto, innamorate del tuo conto di banca molto alto. Io con i miei so, mi avvicino, le distraggo, le attrago, le porto a salvo come farebbe Rambo. Schwarzenegger in comando, con uno strida fare un baffo a Marlon Brando. So anche qualche passo di tango, mentre mi allontano tu che ami i tuoi amici sbirri. E come un bambino punti il dito verso me. Tipo stai puntando il dito verso me. Tipo non capisco, tu ce l'hai con me. Tipo stai puntando il dito verso me. Tipo tu ti senti superiore a me. Tipo stai puntando il dito verso me. Tipo non capisco, tu ce l'hai con me. Tipo stai puntando il dito verso me. Tipo non capisco, tu ce l'hai con me. Tipo stai puntando il dito verso me. Tipo tu ti senti superiore a me. Tipo stai puntando il dito verso me. Tipo non capisco, tu ce l'hai con me. Salto sopra un palco, le mani tieni in alto. Muovi quelle braccia che se poi ti senti stanco. Sono adesso io il protagonista in vista. In pista chiamo gente a far casino perché se mi gusta. Si avvicina alla vecchietta incuriosita, mi segue sorridente finché la canzone non è finita. Tu sei un infiltrato, nessuno ti ha invitato. A sto party ti presenti con gli amici, ho mandato di cattura. Mio nome nella lista della gente che non tiene mai la bocca chiusa e si difende come può senza censura. Tipo è storia dura, cerco da st'inferno una via di fuga. Ogni giorno vedo sempre più gente che ruba, e meno quella che suda, chi fa le fuse e poi ti accusa. Chi si vende per 30 denari come Giuda, chi di potere fino all'eccesso ne abusa. Chi di domande ne ha tante, di risposte nessuna. Io di domande ne ho una per te, tipo rispondi perché. Tipo stai puntando il dito verso me. Tipo non capisco, tu ce l'hai con me. Tipo stai puntando il dito verso me. Tipo tu ti senti superiore a me. Tipo stai puntando il dito verso me. Tipo non capisco, tu ce l'hai con me.